La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al volume di David Gentilcore, oggi ospite ai nostri microfoni, Italiani mangia patate, fortuna e sfortuna della patata nel bel paese. Arrivata dal Nuovo Mondo nel 500, la patata è stata probabilmente l'alimento che più ha contribuito a far uscire l'Europa dalla fame. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alla febbre del lusso, una forza potente che ha plasmato la nostra storia e che ci spinge a una continua evoluzione. La parola va a Dino Pesole. Il tentativo, certamente originale, è di ripercorrere parti della storia economica e sociale del nostro paese attraverso un antico e per molti secoli fondamentale alimento, la patata. Scorrendo le pagine del libro di David Gentilcore, Italiani mangia patate, fortuna e sfortuna della patata nel bel paese, appena pubblicato dal Mulino, scopriamo che la patata fece il suo ingresso in Europa, proveniente dal Nuovo Mondo, molti secoli fa, nel 500. Ed è stato l'alimento che più di ogni altro ha contribuito a far uscire l'Europa dalla fame. Eppure in Italia per lungo tempo non ha avuto fortuna. Solo nell'Ottocento si è diffuso ampiamente nel nostro paese, soprattutto come coltivazione di montagna. La patata modificò il regime alimentare degli italiani, contribuendo a emancipare le campagne dalla sottoalimentazione, migliorandone il tenore di vita. Un cambiamento che avvenne sotto la spinta congiunta delle carestie e dell'opera educativa di alcuni, per così dire, spiriti illuminati, che riuscirono a vincere il sospetto o il disprezzo per questo alimento. Una serie di eruzioni avvenute tra il 1811 e il 1818, la più importante delle quali fu l'esplosione del vulcano Tambora nell'isola indonesiana di Sumbawa nel 1815, diffuse nell'atmosfera tanta polvere da alterare il clima mondiale. In Europa, i contemporanei osservarono nell'aria un vapore fumoso e la debolezza della luce solare. Nel maggio del 1816 cadde una neve rossa e gialla che terrorizzò gli abitanti di Taranto, dove la neve era già di per sé un caso insolito. La maggior parte di quel decennio era stata caratterizzata da estati umide e fredde. I raccolti andarono spesso perduti. Il culmine delle sofferenze fu raggiunto tra il 1816 e il 1817, crisi che viene talvolta fatta coincidere con il periodo in cui gli italiani cominciarono a mangiare e coltivare patate. Se fu davvero così, il consumo e la coltivazione della patata è in gran parte da addebitarsi a un vulcano. In poche parole, è stata la crisi a far riscoprire ai nostri lontani antenati la patata. Prima era considerata dalla maggior parte il cibo degli animali. L'eruzione del vulcano Tambora è considerata dagli studiosi una delle più violente dalla fine dell'ultima era glaciale. Complessivamente vennero proiettati in aria circa 150 miliardi di metri cubi di roccia, cenere e altri materiali. L'esplosione provocò almeno 60.000 morti, dovuti sia agli effetti diretti dell'eruzione, sia alle pesanti carestie che seguirono il disastro. Il cambiamento climatico fu aggravato da fattori di ordine socio-economico. Le guerre napoleoniche, da poco conclusesi, avevano lasciato alle loro spalle una scia di distruzione, disoccupazione e brigantaggio. Il commercio era in crisi. Le requisizioni militari e le imposte gravavano in modo particolare sui proprietari terrieri, ora più che mai ansiosi di salvaguardare i loro privilegi e contrastare il cambiamento. Gli stati italiani restaurati adottarono severe misure per ristabilire l'ordine e accrescere le entrate. Ovunque i contadini dipendevano dall'esito dei raccolti, ma l'agricoltura versava in gravi condizioni. Una serie di cattivi raccolti innescò un calo dei prezzi, tranne che per i generi alimentari, e la diminuzione della produzione fece aumentare i livelli di disoccupazione. Artigiani e agricoltori furono costretti a impegnare arnesi, mobili e abiti. Talvolta vi furono costretti per pagare tasse e dazi imposti dalle autorità austriache dell'Italia del Nord a dispetto della crisi. In tale contesto, il ricorso a un alimento per così dire povero, ma in grado quantomeno di sfamare popolazioni ridotte alla fame, fu una necessità. Della storia di due secoli della patata, con i suoi risvolti economici, sociali, ma anche culturali, parliamo con l'autore del volume, David Gentilcore, che insegna storia moderna all'Università di Leicester. Buonasera, professore, e benvenuto a Radio 24. Beh, grazie, buonasera. Ci racconti meglio intanto da cosa nasce questo suo interesse molto interessante, ma direi originale, per un alimento che forse è considerato un alimento povero, ma che in realtà, scorrendo le pagine del suo libro, ha avuto un ruolo fondamentale in parti notevoli della storia economica e sociale del nostro paese. Sì, è un po' paradossale, visto che sì, come dice, è sempre considerato un alimento povero, ma fu anche molto importante, soprattutto nelle zone montane e soprattutto durante l'Ottocento e l'inizio del Novecento. Però all'inizio, per secoli, fu quasi sempre ignorata. In Italia, come altrove in Europa, come la Francia per esempio, mentre in altre zone d'Europa, tipo l'Irlanda o l'Europa del Nord, viene subito accettata. Quindi un po' era la curiosità di capire perché, come mai in certe zone viene accettata, in certe zone no, o come mai altri prodotti americani, tipo il peperoncino o il mais, vengono accettati subito, che entrano a far parte dell'agricoltura, dell'alimentazione, mentre altri prodotti americani, tipo il pomodoro, per esempio, o la patata, non vengono accettati subito, perché anche il caso del pomodoro, come ho scritto un paio di anni fa. Sì, in un suo precedente libro. Sì, sì. La purpurea meraviglia. Sì. Quindi la patata un po' è simile in questo. Certo. Quindi capire perché. L'altra cosa interessante che abbiamo scoperto leggendo il suo libro, professore, è che in realtà fu l'eruzione di un vulcano in Indonesia a far entrare la patata, come dire, nel menù degli italiani. Quasi, ecco. Ho cominciato proprio con questo avvenimento, perché è una cosa sorprendente, fu anche una sorpresa per me scoprire l'impatto che ebbe questa eruzione nel 1800, nei primi anni dell'Ottocento. Insomma, sono una serie di eruzioni che cambiano il clima del mondo intero. E quindi anche noi oggigiorno parliamo degli effetti, no? Effetto serra, no? Del cambiamento del clima, quindi anche per loro tutta una serie di raccolti disastrosi, di fame, e quindi gli intellettuali del periodo parlano sempre della patata come una soluzione alla fame. E quindi sì, per un certo periodo le persone disperate, affamate, piantano e mangiano patate, però finita la fame smettono. E questa è la cosa che, diciamo, la seconda sorpresa, che non fu proprio questo avvenimento che persuase, insomma, gli italiani di mangiare la patata, però entra un po' nella cultura. E qualche decennio dopo poi si comincia davvero a piantare e a mangiare patate. Ecco, da questo punto di vista, professore, le volevo chiedere, ma nel corso dei decenni successivi all'inizio dell'Ottocento, poi in realtà l'utilizzo di questo fondamentale alimento ha avuto un ruolo importante anche dal punto di vista sociale, oltre che economico, perché ha contribuito in qualche modo, come si può dire, a emancipare intere masse di contadini che erano condannate in qualche modo a una condizione di estrema povertà, quindi ha avuto un ruolo sociale. Questo è l'altro aspetto importante. È importante, ma anche qui paradossale, ecco. Mi spiace sempre insistere sui paradossi, certo. Ma infatti è così, perché ha ragione che i poveri mangiano meglio, o almeno mangiano di più, ecco, come nutrimento. La patata dà quel quel po' che ci vuole per alimentarsi meglio e per anche riprodursi di più. La popolazione aumenta anche grazie alla patata, anche grazie a quello che dà la patata. Però questo ha un impatto anche negativo, perché si potrebbe pensare, beh, tanto è un bene che si possa mangiare di più, perché la patata offre quasi a livello nutritivo quasi un alimento completo, è quasi una, quindi è un bene da questo punto di vista. Però dall'altra parte l'aumento della popolazione, specialmente nelle zone montane, che sono zone diciamo marginali o sono ecosistemi fragili, no? E quindi la patata, l'aumento della popolazione mette tutto questo a rischio e quindi contribuisce al fenomeno migratorio, insomma l'emigrazione massiccia che caratterizza gli ultimi decenni dell'Ottocento in poi. Grazie professore, abbiamo esaurito il nostro tempo, la ringraziamo molto per questo suo interessante contributo. Il libro si chiama Italiani mangia patate, fortuna e sfortuna della patata nel bel paese. Buona serata e grazie. Grazie a voi, buonasera. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte de La storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alla febbre del lusso che plasma la storia dell'uomo. La gente desidera da sempre il lusso e per ottenerlo è disposta a fare di tutto e a correre grandi rischi. Per comprendere l'umanità dobbiamo capire il desiderio insaziabile di ciò che è esotico, esclusivo e costoso. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 25 marzo alle 23 su History Channel. Ai confini dell'Europa, sotto il suolo britannico, giacciono migliaia di tonnellate di argento. Nel mondo antico l'argento è potere. Per milioni di anni quell'argento è rimasto intatto. A più di 1000 chilometri da lì, un esercito possente è attirato dalle notizie su quelle ricchezze. I Romani. La loro ricerca di argento plasmerà la nostra storia in modo straordinario. I Romani amano il lusso, ma hanno bisogno di denaro per pagarlo. La valuta più forte nel mondo antico è l'argento. I soldati di Roma devono procurarselo. Richard McMachovitz, esperto militare ed ex Navy SEAL. Il modello economico di Roma era fondato sulla conquista, fondato sul saccheggio. E il modo migliore per ottenere un bottino è andare a prenderselo. La Britannia è l'ultima conquista di Roma. In soli 20 anni, i Romani uccidono quasi 80.000 britanni. Nessuno può impedire loro di impossessarsi dei metalli preziosi per i quali sono venuti. Ian Morris, Università di Stanford. L'impero romano è stato capace di trovare più argento di chiunque altro e una volta impossessatosi di quell'argento ha potuto scambiarlo con altre popolazioni. L'immensa quantità di argento che giunge a Roma permette di acquistare beni di lusso anche ai comuni cittadini. Con l'argento si può soddisfare ogni desiderio. Il sudore dei gladiatori viene imbottigliato e venduto come potente afrodisiaco. I ghiri, messi all'ingrasso, sono una prelibatezza. Per la prima volta, il lusso è alla portata delle masse. L'argento ha scatenato un desiderio insaziabile di lusso nei cittadini di Roma. Ma c'è un bene molto ambito e così eccezionale da cambiare la storia dell'intero pianeta. 3 romani viaggiano lontano in cerca di un raro tessuto che molti di noi oggi hanno nell'armadio di casa. La seta. La seta porta alla realizzazione della prima grande rotta per il commercio del mondo, è l'inizio della globalizzazione che oggi consente a tutti noi lussi accessibili. Quei mercanti percorrono 8.000 chilometri per soddisfare i gusti costosi dei romani. Agnes Su, Istituto Cinese e UNESCO. I romani adoravano gli articoli di lusso esotici e la seta era il bene di lusso più ambito e in assoluto nel mondo antico. Giungono in una terra per loro leggendaria, la mitica fonte della seta, la Cina, un impero ancora più grande di Roma. I cinesi non hanno mai visto gli occidentali, i romani non hanno mai visto tanta seta. La seta è diversa dagli altri tessuti. La sua straordinaria lucentezza è data da fibre triangolari che, come un prisma, riflettono la luce in molte direzioni. Ma per i romani la bellezza della seta è un mistero. Non riescono a capire come produrla. E gli imperatori cinesi custodiscono gelosamente il segreto. Timothy Brook, Università della British Columbia. La manifattura della seta è un segreto di Stato in Cina. Nessun tessitore cinese può rivelare questa informazione ai forestieri. I mercanti dichiarano di essere inviati dell'imperatore di Roma. Ma potrebbero essere le prime spie industriali della storia, venute a rubare il segreto del più grande lusso della Cina. L'incredibile verità è che la seta è prodotta da un piccolo bruco, il baco da seta. Il baco crea un bozzolo da un unico filo continuo, lungo più di 1.000 metri e forte come l'acciaio. Immerso nell'acqua bollente, il filo si dipana per essere tessuto e trasformato in stoffa. L'imperatore cinese riserva una punizione particolare alle spie. Come i bachi da seta, le getta nell'acqua bollente. Anche se ne escono vivi, i romani non riescono a scoprire il segreto della seta. Dal dominio della Cina nella produzione della seta nasce la prima rotta di scambio intercontinentale del mondo. Lunga circa 8.000 chilometri, sarà conosciuta come la Via della Seta. Per 1.500 anni, la maggior parte del lusso dell'Occidente viaggerà lungo questa famosa strada. La passione per la seta è così forte che gli uomini attraversano il mondo conosciuto per averla. Ma la ricerca di un altro importante bene di lusso ci condurrà in una terra di cui non si conosceva nemmeno l'esistenza. È difficile crederlo oggi, ma nell'Europa del Medioevo uno dei beni di lusso più ambiti è il pepe. Quel condimento che oggi diamo per scontato, una volta era riservato solo ai ricchi. Il pepe è un bene così ambito che il nostro amore per esso cambierà la storia. Viene trasportato lungo le rotte di scambio dall'India, dove è abbondante ed economico. Spostandosi verso Occidente, il suo valore aumenta più di 100 volte. Il redditizio commercio del pepe è controllato da una città, Costantinopoli. È la porta fra Oriente e Occidente. Il sultano del nascente impero islamico è deciso a conquistare la città e il suo prezioso commercio di beni di lusso. Tuttavia, c'è qualcosa che lo ostacola: le imponenti mura di cinta di Costantinopoli. Spesse fino a quasi 4 metri, alte fino a 30, hanno respinto ogni attacco per 1.000 anni. Ma lungo la Via della Seta arriva un nuovo prodotto che sconvolgerà la situazione. Non un articolo di lusso questa volta, ma una sostanza che permetterà di sfondare le mura. La polvere da sparo. Come la seta, anche la polvere da sparo è una scoperta cinese. Il sultano, quindi, costruisce i primi supercannoni e inizia un bombardamento implacabile. Dopo un assedio durato quasi 2 mesi, le mura di Costantinopoli finalmente cedono. Nessuna città sarà più al sicuro. Il sultano stabilisce a Costantinopoli la capitale del suo impero islamico. È ostile agli stati cristiani dell'Europa e ne blocca l'accesso ai beni di lusso orientali. Charles Mann, autore di 1491 e 1493. Il commercio a grande distanza, esistito per secoli, cambia drasticamente e viene interrotto in un modo che i popoli più potenti dell'Europa non gradiscono assolutamente. La caduta di Costantinopoli ha un fortissimo impatto globale. Quando gli europei non riescono ad accedere ai lussi che desiderano, sono costretti a trovare nuove vie per i mercati d'Oriente. Questo farà sì che il mondo cambi in maniera del tutto inaspettata. C'è un esploratore europeo con un piano rivoluzionario. Vuole trovare nuove vie per i lussi d'Oriente, navigando verso ovest, intorno al mondo. Il suo nome è Cristoforo Colombo. Trascorre più di 2 mesi in mare. Il suo equipaggio è prossimo alla morte per inedia e all'ammutinamento quando finalmente tocca la terraferma. Cercava una rotta per l'India. Crede di essere arrivato in Giappone. In realtà, Colombo probabilmente si trova alle Bahamas. Ha compiuto l'errore forse più celebrato della storia. La scoperta di 2 vasti continenti, sconosciuti agli europei. Le Americhe. Sam Sheridan, scrittore. Arrivato nelle Americhe, a Colombo brillano gli occhi in vista del guadagno. La sua motivazione è quasi esclusivamente economica. Non vuole costruire un nuovo mondo, né fondare lo Shangri-La, né creare una società nuova. Vuole riportare le ricchezze in Europa. La ricerca del lusso verso Oriente ha portato alla scoperta di un nuovo mondo a Occidente. Ora, le ricchezze delle Americhe apriranno la porta a nuovi lussi. E col tempo, al mondo moderno. Mezzo secolo dopo Colombo, nelle Ande del Sud America, i conquistadores spagnoli scoprono una montagna d'argento. Alta circa 3.200 metri, larga più di 6.000, contribuirà a rendere il lusso disponibile a milioni di persone. L'argento estratto qui viene usato per le monete, conosciute come pezzi da 8, che diventeranno la prima valuta veramente globale. James Makes, redattore capo della rivista Popular Mechanics. A 30 anni dalla scoperta di Colombo, le navi spagnole navigano fino in Cina, cariche d'argento. L'argento diventa lo strumento del commercio globale, lo strumento monetario che collega per la prima volta l'intero pianeta in un'economia globale. Lo stemma spagnolo sul pezzo da 8 si trasformerà nel simbolo del dollaro americano. Avete appena ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Mankind, le 12 chiavi del successo, la febbre del lusso. Regia di Hugh Ballantyne, titolare dei diritti Fox International Channels Italy, casa di produzione AETN. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 25 marzo alle 23 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.